posso fingere, non voglio fingere, non sciupare per me le tue lacrime, non so credere nel tuo amore, no, non illuderti, è tutto inutile, tu sei l'estasi di qualche attimo, non ti voglio ingannare per non farti soffrire, non illuderti di più. Di qualche attimo, non ti voglio ingannare per non farti soffrire, non illuderti di più.